Voci d'impresa. Vite e storie dietro l'azienda. Alberto Alessi, il design in tavola, di Lara Vecchio. Buona giornata, bentornati, nuovo appuntamento con Voci d'Impresa. Una famiglia radicata sul Lago d'Orta, un marchio riconosciuto ormai in tutto il mondo, un talento creativo alla guida di un'azienda che ha cambiato volto trasformandosi in un polo di attrazione, un punto di arrivo per i design di tutto il mondo. Con noi Alberto Alessi, che ha faticato ad imporre la sua creatività in una famiglia di imprenditori, seppur illuminati. Beh, io sono, essendo il primo... diciamo il primo della terza generazione dell'Alessi che lavoro in famiglia, sapevo fin dall'inizio che il mio destino sarebbe stato quello di venirsi a lavorare, la mia responsabilità sarebbe stata quella, e così ho fatto nel 1970. E per la verità all'inizio è stato un po' tribolato, se posso dire così. Prima di tutto sembra quasi impossibile dirlo oggi, ma quando ho dovuto decidere che cosa avrei studiato all'università, è stata una decisione soffertissima. Oggi nessuno verrebbe in mente di costringere suo figlio di fare una certa cosa. Mio papà voleva che io studiassi economia, che è esattamente il contrario di ciò a cui sono portato. Mi interessava l'architettura, l'arte. Non sono un artista assolutamente, ma mi interessavano quei temi lì. E poi mi ricordo ancora quando sono... perché poi l'ho tirata alla lunga alla fine del liceo, dopo la maturità, quell'estate lì, a un certo punto ho capito che avrei dovuto andare da mio padre a farla fuori, insomma. E allora sono andato nel suo ufficio, che era nell'altra parte dello stabilimento, e a un certo punto adesso devo dirgli che insomma papà, allora adesso qui dovrei decidere. Allora mi guarda e dice: ma allora cosa vorresti studiare? Io per la verità in quell'epoca lì ero molto attratto dalla psicologia e dalla filosofia, ma sapevo che non c'erano chance. Allora mi piaceva altrettanto l'architettura e mi ero fatto l'idea che mi sarebbe proprio piaciuto studiare architettura. Allora ho detto: io pensavo architettura, mi ha guardato con due occhi di ghiaccio, ho capito che il mio destino era segnato. E abbiamo discusso e alla fine è uscito questo compromesso di legge. Ho fatto 4 anni di legge alla Cattolica a Milano, una gran noia, secondo me non mi è servito niente. E nel 1970, il giorno dopo la laurea, nel luglio del 70, ho cominciato a lavorare qui. Beh, sì, conflittuale in senso buono naturalmente, perché poi siamo una famiglia molto affiatata, ecco. Però sì, d'altra parte si mette nei miei panni. Io sono entrato qui, già non avevo, non è che non l'avevo scelto io. In più le garantisco che un ambiente, un'azienda metalmeccanica hard come questa qui era veramente un po' freddina come ambiente e io lo trovavo un po' noioso, sinceramente. Ho avuto la fortuna che mio papà comunque mi ha consentito di occuparmi del coordinamento di alcuni progetti nuovi. L'azienda comunque viveva di nuovi progetti, di nuove idee, di nuovi design, perché in realtà poi il design non l'ho portato io nell'Alessi, perché mio papà è stato un designer che ha disegnato tra gli anni 30 e gli anni 40 una gran parte dei prodotti Alessi di quel periodo, e poi negli anni 50 è stato lui che ha cominciato a chiamare dei progettisti dall'esterno a venire a collaborare con l'azienda. E beh, mio padre faceva parte di quella generazione di giovani imprenditori che agli inizi degli anni 50 hanno dato il via storico al fenomeno delle fabbriche del design italiano, cioè lui come alcuni diversi suoi colleghi avevano capito che c'era la necessità di, nel momento della ricostruzione e immediatamente precedente a quello che sarebbe divenuto il boom economico italiano ed europeo, avevano la necessità di caratterizzare la loro nascente produzione, perché si trattava anche di ricostruire in tanta parte d'Italia gli stabilimenti, oltre che i prodotti, di caratterizzarla non più solo con la qualità, come dire, esecutiva, produttiva, né con il prezzo che allora era basso e competitivo nei confronti di altri paesi europei anche, ma di caratterizzarla anche con un gradiente estetico. La combinazione è stata, parlo sempre di quel periodo inizio anni 50, che c'è stata una coincidenza tra una nuova generazione di imprenditori ed una nuova generazione di giovani architetti e designer, nel caso italiano architetti. Parlo di personaggi come a partire da Gio Ponti, che ne è stato un po' il padre, Mazzanuso, Magistretti, Laulenti, Fratelli Castiglioni, Caccia Dominioni ed alcuni altri, tutti più o meno coevi, tra l'altro, cioè coetanei, che si sono messi insieme e hanno generato lo start-up del fenomeno del design italiano, come lo si conosce oggi, con tutte le sue evoluzioni. 80 anni di storia, un laboratorio artigianale che si è evoluto fino a diventare un fenomeno del design italiano, mescolando il mondo dell'arte e quello dell'industria. Beh, no, è stata una cosa progressiva. Quello che avevo era, da un lato, il desiderio di muovere un po' le acque nell'ambiente, come dicevo prima, un po' morno, noioso dell'azienda. Dall'altra, credevo nelle implicazioni dell'arte industriale, e cioè mescolare una sensibilità di natura artistica, il mondo dell'arte con il mondo dell'industria. E poi sono stato molto fortunato, perché proprio nei primi anni 70 via via ho potuto lavorare con alcuni dei grandi maestri del design italiano, con molti dei grandi maestri del design italiano, a cominciare da Sozzas e poi Sapper e poi Achille Castiglioni, Alessandro Mendini e poi tutti gli altri. E questi personaggi mi hanno aiutato tantissimo, sono stati maestri per me, cioè mi hanno aiutato ad affinare e a capire che cosa sentivo, ecco. Dei grandi maestri che ho incontrato, il primo è stato Ettore Sozzas, con cui ho cominciato a lavorare nel 1971. È stato il primo grande personaggio che ha avuto una fortissima influenza su di me, sulla mia stessa formazione, anche che ha lasciato un'impronta, un imprint importante che ha contribuito all'evoluzione della pratica complessiva dell'Alessi. Alessandro Mendini è arrivato a metà degli anni 70, è certamente l'autore, il personaggio al quale sono più legato storicamente, perché il rapporto continua da allora. Lui in realtà ha, come dire, diversi cappelli all'interno della nostra realtà, perché non è solo un designer che disegna degli oggetti, alcuni anche di grande successo. È stato il primo storico, è lo storico di casa, perché ha fatto la prima ricerca storica e il primo libro e la prima mostra alla Triennale sulla storia della produzione Alessi nel 79. E anche il più importante consulente metaprogettuale che abbiamo. Metaprogettuale intendiamo, per metaprogetto noi intendiamo l'attività che consiste nel creare, nell'immaginare degli ipotetici scenari di tipo socioculturale futuri, all'interno dei quali poi li riempiremo di progetti veri, di autori e di progetti veri. È una sorta di responsabilità culturale, se vuole. E lui ha sempre lavorato molto in questa area con me. Non ho mai disegnato niente, e devo dire che poi, avendo lavorato con così tanti bravissimi designer, anche se avessi avuto voglia, mi sarebbe passata. Faccio design manager, che è invece un ruolo che mi si attaglia benissimo. Praticamente il design manager è colui che, prima di tutto contribuisce alla definizione del metaprogetto iniziale, poi sceglie gli autori, poi cerca di spiegare agli autori che cosa di ciò di cui l'azienda pensa di aver bisogno, dopodiché l'autore gli dice invece che cosa secondo lui ha bisogno davvero l'azienda, e alla fine il design manager gli tocca decidere. E poi aiuta gli autori a sviluppare i loro progetti attraverso un iter di sviluppo progetto che è molto complesso, che richiede circa 2 anni, insomma, e alla fine ha anche la responsabilità di decidere se ok, andiamo in produzione oppure no. Queste operazioni sono operazioni che hanno coinvolto direttamente un gruppo di architetti internazionali che non avevano mai fatto disegno industriale e che abbiamo provocato cercando di capire se tra di loro c'era per caso qualche talento forte, capace di essere interessato di esprimersi anche nel campo del product design. Per la verità, questa operazione, per capirla bene, bisogna inserirla nella realtà culturale del design italiano, che è sempre stato legatissimo all'architettura. Cioè, Ernesto Rogers diceva ciò di cui si occupano gli architetti è dal cucchiaio alla città. E tutta la storia del design italiano è stata fatta così. No, non c'è, credo, senza praticamente eccezioni, tutti i grandi designer italiani erano prima architetti. Poi magari non costruivano niente, come è il caso o quasi, di Castiglioni o anche di Sozzo fino a pochissimi anni fa. Però erano di formazione architetti che poi facevano anche industrial design, architettura magistra omnium artium. Architettura era la maestra di tutte le altre arti. E quindi va inserita in quella tradizione lì. È sempre stato un campo fertilissimo di talenti per il design, l'architettura. Perciò ogni volta che me lo posso permettere, e cioè perché sono operazioni costosissime, ogni 20 anni circa organizzo un'operazione di scouting nel mondo dell'architettura costruita, invitando autori che si sa già che sono bravi, ma che non hanno ancora raggiunto l'apogeo, l'apice della loro bravura come architetti. Quindi ingegneri cinquantenni, perché prima di quell'età un architetto non si sa se non ha avuto neanche le occasioni spesso per esprimersi. E tra l'altro però quell'operazione è anche stata l'operazione che ci ha consentito di scoprire, allora avevamo invitato 13 autori, di scoprire che di questi grandi architetti, 13, tutti veramente bravi, bravissimi, ce n'erano due che avevano delle qualità straordinarie per esprimersi anche nel campo dell'industrial design, del product design, e cioè Aldo Rossi, italiano, e Michael Graves, americano. I think that design, whether at a large scale, whether cities or campuses or groups of buildings, versus the simplest objects for the interior or even for the kitchen, are all within the province of the architect or the designer. Da quell'anno in poi, questi due autori hanno sviluppato due filoni, due famiglie, come le chiamiamo noi, di oggetti Alessi, di straordinario appeal e successo anche di pubblico. Ci risentiamo tra poco, ancora con noi Alberto Alessi. A dopo.